2024 2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 21 aprile 2012. Benvenuti o bentornati a 2024. Come la tecnologia ci cambia la vita, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Oggi c'è Paolo Corleone che si occupa della parte tecnica. Parliamo subito di telefonia mobile, del mondo della mobilità, per fare un po' il punto della situazione dopo dati tutt'altro che brillanti che sono stati presentati in settimana da Nokia, mentre invece Intel, ma il mercato di Intel è molto più ampio, sono stati brillanti, molto interessanti, per l'ennesima volta ha battuto alcuni record. Invece dicevo di Nokia, che ha chiuso il primo trimestre 2012 con una perdita netta di quasi un miliardo, perché 929 milioni di euro, ma insomma, al di là del dato finanziario, Nokia ha problemi di vendita e alcuni la definiscono ancora numero uno mondiale della telefonia. È vero o non è vero? Lo scopriremo tra poco assieme a Carolina Milanesi, che è vicepresidente di Gartner per l'elettronica di consumo in tutto il mondo, che abbiamo intervistato ieri, visto che il fuso orario della costa californiana non aiuta. Carolina Milanesi. Ma guarda, secondo me, seguendo un pochino tutte le discussioni, no, che si sono fatte negli ultimi due giorni, c'è la realtà di quella che è la Nokia e poi ci sono le aspettative di quelli che sono gli analisti finanziari e la stampa. La Nokia è, come ne parlavamo in passato, no, a volte parlo della Nokia come un carro armato che è difficile da girare, non lo giri facilmente come una 500. Ci vuole il suo tempo, e la Nokia in questo ultimo anno, quindi dall'11 di febbraio del 2011, quando hanno detto che cambiavano la strategia e andavano con Microsoft, ha fatto dei cambiamenti straordinari, si è mossa con una velocità che non abbiamo mai visto. Però purtroppo il mercato si sta cambiando anche velocemente, e alcuni dei venditori con cui la Nokia si confronta sono ancora piccoli, se parliamo dei famosi white box di cui abbiamo già discusso nella tua trasmissione, no? Di questi venditori cinesi che non hanno un marchio che si riconosce, ma che danno al consumatore quello che vogliono a una frazione del costo di quelli che sono i telefoni invece dei venditori di fascia primaria. Queste sono le dinamiche con cui la Nokia si confronta. Quello che devono così al momento cercare di vincere è, prima di tutto, un mercato come l'Europa, farsi rivedere come un'azienda trainante e non un'azienda che fa il fanalino di coda al mercato. Far vedere che anche come marchio Microsoft e come sistema operativo, il fatto che sia diverso non vuol dire che sia meno efficace o meno interessante o meno sexy di Apple con iOS o di Google con Android. Queste sono le due primi, i due punti principali che la Nokia deve combattere. Il resto c'è senz'altro il fatto che stanno rincorrendo il mercato, perché hanno avuto un anno per riuscire a fare dei prodotti, e abbiamo visto non un prodotto solo, ma nella fascia di pochi mesi tre prodotti che sono arrivati al mercato, più la versione per il mercato americano, quindi quattro prodotti: il 900, l'800, il 710 e il 610. Questo è straordinario se si pensa che fino a il febbraio del 2011 la Nokia non aveva mai neanche visto il sistema operativo Microsoft. Quindi tu dici, cerco anche di interpretare, andare un po' oltre, che sicuramente i prodotti ci sono anche dei buoni prodotti, perché a giudizio di molti esperti del mercato l'accoppiata hardware Nokia e il Windows Phone è un ottimo prodotto, ma che deve ancora vincere un po' il consumatore in una fascia di mercato, quella degli smartphone, dove si sono affermati altri marchi e dove altri marchi come iPhone, come tutta la gamma di Android, sono visti ancora oggi come la prima scelta. Sì, devono convincere assolutamente il consumatore, ma devono prima di convincere il consumatore convincere chi vende questi telefoni, quindi l'operatore mobile o i vari negozianti e i distributori, di dire effettivamente diamo a Nokia Microsoft, alla accoppiata Nokia Microsoft, la possibilità di entrare nel nostro portafoglio prodotti. Adesso come adesso, per tutta quell'eccitazione che è intorno a Apple e intorno a Android, per un addetto alle vendite è molto più semplice quando il consumatore entra nel negozio venderti un Android che non cercare di convincerti di prendere una Nokia. Senti, quanto vale l'operatore in questo mercato della telefonia mobile? Vale molto o comunque il consumatore, se vuole un prodotto, in qualche modo, insomma, guida le dinamiche? O invece l'operatore può spostare i consumatori? Dipende dai mercati. In un mercato come l'Italia, l'operatore vale fino a un certo punto, nel senso che ovviamente c'è il valore dell'operatore, della rete e via dicendo, però nella scelta del prodotto un po' meno perché non hai il sussidio che invece hai in altri paesi. Se per esempio sentivi la telefonata di Nokia ieri, parlavano principalmente per esempio dei problemi che stanno avendo in Cina, dove loro hanno sempre dominato il mercato, è da anni e anni che hanno una presenza molto forte nel mercato cinese, ma adesso le dinamiche del mercato stanno cambiando e sta passando da un mercato che era prevalentemente retail, quindi distributori e negozi, a un mercato che invece viene spinto dall'operatore. E quindi se tu non hai una buona relazione con l'operatore, hai difficoltà. Lo stesso nel mercato americano. Nel mercato americano non vendi se non sei con l'operatore, perché l'operatore ti dà il sussidio, ti dà la parte dei dati e quindi le tariffe, e in generale il consumatore è abituato a entrare nel negozio di Verizon piuttosto che nel negozio di AT&T a comprarsi il telefono. Sì. Senti, abbiamo parlato di Nokia perché sicuramente secondo voi, giusto, è ancora il numero uno o è stato superato da Samsung a livello mondiale? Parliamo non solo di smartphone, ma anche naturalmente di telefoni normali, tra virgolette. Allora, Samsung non ha ancora riportato i numeri per il primo trimestre, ma noi ci aspettiamo che riporteranno qualcosa intorno agli 87-89 milioni di pezzi venduti, e Nokia invece ha riportato ieri appena sotto dell'83, quindi ci aspettiamo che Samsung prenderà la posizione di testa. È diventato quindi il numero uno tra i produttori di telefoni, Nokia passa al numero due. Cosa diversa poi per gli smartphone, ma non ci addentriamo nella classifica degli smartphone, avremo tempo per riparlarne. No, volevo dire che non c'è solo Nokia che se la sta passando non troppo bene, insomma qualche difficoltà anche la vediamo su altri produttori di telefoni, sia Android sia ad esempio con un sistema operativo unico nel suo genere che è BlackBerry. Che cosa sta succedendo? Ma il mercato sta diventando senz'altro molto molto più competitivo e sta diventando, come dici tu, BlackBerry RIM, Research in Motion, sta avendo dei problemi, HTC sta avendo dei problemi, LG è così diventata un'azienda che sembra quasi irrilevante, non hanno problemi nello stesso modo a livello di finanziario, ma non è così un marchio che il consumatore così si ricorda o Riconosce pensa. facilmente, sì. Esatto. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che il mercato si sta un pochino biforcando, no? Hai i consumatori che hanno un certo livello di disposable income, che hanno la possibilità di spendere e di prendere quello che vogliono, che guardano a Samsung e a Apple, quindi la fascia molto alta del mercato. E poi hai consumatori che invece, vista anche la situazione economica che abbiamo in paesi come l'Europa, ma anche qui in America, che sono molto più attenti al centesimo, no? E quindi quando spendono vogliono essere sicuri che spendono i loro soldi in maniera giusta. E questi stanno avendo adesso la possibilità di scegliere da venditori come ZTE e Huawei, che sono nuovi, diciamo nel mercato non operatore, ma nel mercato proprio sotto il loro marchio. Sono stati nei paesi europei da molto tempo lavorando in congiunzione con operatori come per esempio Orange in Francia, sì, e in Inghilterra. Quindi senza vendere prodotti con il proprio marchio, vendevano prodotti, esatto, con il marchio dell'operatore telefonico. Esatto, e invece adesso stanno arrivando proprio di loro, sotto il loro marchio e con grande forza, e dandoti dei telefoni che non sono più dei telefoni di seconda fascia, ma sono telefoni che non hanno niente da invidiare a un telefono di una LG piuttosto che di una HTC, e a prezzi che sono 25-30% in meno della fascia primaria di marchio. E quindi come consumatore dice: ma perché no? Quando tu non hai un marchio che si differenzia abbastanza, questo è il rischio che corri. Per quanto riguarda RIM, c'è il grande trend della consumerizzazione, no? Nella parte dell'enterprise. Quindi hai avuto una RIM che nella parte sua di focalizzazione intorno alle aziende, quindi di dare email all'azienda, questo è stato il loro, diciamo, il loro focus principale, no? Adesso le aziende hanno opportunità, hanno iPhone, hanno Android, e nella parte consumatore tutto il discorso che hanno fatto intorno al famoso BBM per fare instant messaging non è più abbastanza per il consumatore vuole di più, e vuole di più intorno a touch, quindi usare l'interfaccia tattile sul telefono, che è ancora una parte che per RIM ci sono arrivati, ma forse la ricchezza d'esperienza non è uguale a quello che hai su una piattaforma Android. Sì. Queste sono le difficoltà di oggi. E anche le sfide di oggi. Era la voce di Carolina Milanesi, non in diretta, abbiamo registrato l'intervista ieri dalla California via Skype. Questo è 2024, ci fermiamo per un minuto. 2024. Riprendiamo, sono le 15:48 minuti, questo è 2024, io sono Enrico Pagliarini. Ci sono due notizie che mi premeva sottolineare di questa settimana. La prima riguarda YouTube, una piattaforma per pubblicare video, insomma una delle piattaforme più utilizzate per, beh certo, pubblicare ma anche guardare video in tutto il mondo. Un tribunale tedesco, il tribunale di Amburgo, ha stabilito che YouTube è il primo responsabile per quanto caricato dai propri utenti, motivo per cui deve rispondere per eventuali violazioni da parte degli stessi. Queste violazioni, un gruppo che rappresenta oltre 60.000 artisti tedeschi, le vorrà dimostrare in aula di tribunale. La questione è molto importante perché finora queste aziende che offrono piattaforme per la pubblicazione di contenuti su internet si barricano dietro una scusa molto semplice da comprendere, che fino ad oggi, o comunque fino a ieri, era molto vera. Infatti alcuni tribunali avevano dato ragione a YouTube e a queste piattaforme. Loro dicono: noi siamo una piattaforma neutrale, quindi quello che gli utenti pubblicano è affar loro, dovete andare a prendere loro. In realtà le cose stanno cambiando, già da un po' di tempo YouTube sta trasformandosi in una TV, quindi c'è una scelta anche editoriale sui canali, sui contenuti che vengono pubblicati, e quindi la natura di YouTube sta cambiando. E questo tribunale, sicuramente la sentenza di questa corte di Amburgo, è sicuramente molto interessante. Dunque, l'altra cosa che volevo segnalarvi riguarda un trend, uno dei mega trend di cui parleremo molto presto, 2024, ovvero il cosiddetto big data, grandi quantità di dati che sono disponibili su internet pronte per essere analizzate. Il trend è così interessante che questa settimana, giovedì, una società che si chiama Splunk è stata quotata al Nasdaq e nella prima giornata di contrattazione ha più che raddoppiato il proprio prezzo, ha guadagnato il 109%. Trend estremamente interessante non solo per le grandi corporation ma per tante aziende che non sanno a volte di avere a disposizione dati da analizzare o non sanno come raccogliere questi dati. In modo particolare Splunk è una società che aiuta le aziende a capire, a interpretare, ad analizzare questi dati. Adesso abbiamo altre notizie della settimana con le nostre Digital News. Digital News. Allora, la prima notizia non è molto digitale perché riguarda lo Space Shuttle, il Discovery, che dopo il pensionamento definitivo dalle missioni spaziali, beh, del resto tutto il programma Space Shuttle è andato in pensione nel luglio dello scorso anno, all'inizio di questa settimana è stato trasferito da Cape Canaveral ad un museo vicino a Washington, la parte dello Smithsonian Museum dedicata al volo e allo spazio. Il viaggio è stato effettuato sulle spalle di un Jumbo 747 molto spettacolare, infatti le persone sia a Cape Canaveral sia a Washington hanno raggiunto alcuni posti per vedere questo grande spettacolo. Ora un'altra navetta, l'Enterprise, una navetta dimostrativa che non è mai entrata in orbita, verrà trasferita a New York, perché era proprio lì a Washington, mentre gli altri due shuttle rimasti, l'Endeavour e l'Atlantis, andranno rispettivamente in esposizione a Los Angeles e a Cape Canaveral. Digital News. Ve lo diciamo così, se fate un viaggio in quelle zone potete andare a vedere lo Space Shuttle. Adesso parliamo di cose che ci riguardano più da vicino. Samsung sembra attirare un'attenzione simile a quella di Apple, visti gli articoli che si leggono online e le indiscrezioni sul nuovo smartphone Galaxy S3. Il nuovo terminale verrà presentato alla stampa il 3 maggio e dovrebbe uscire poco dopo sul mercato, visto che il sito tedesco di Amazon sta già accettando i preordini a 599 euro. Digital News. Da oggi invece Amazon permette l'acquisto di due nuovi terminali per leggere gli ebook, il Kindle Touch e il Kindle Touch 3G, che quindi si può collegare a internet per scaricare gli ebook e i libri digitali. Ricordate che Amazon è sicuramente la piattaforma più completa nel mondo degli ebook, ma è anche quella più blindate, quindi se si sposa quel produttore è abbastanza difficile uscire dal sistema. Di ebook torneremo a parlare il 12 maggio in diretta dal Salone del Libro di Torino. Digital News. Arriva un nuovo servizio per ascoltare musica in streaming su internet, si chiama Freezy o Freezy, comunque scritto Freezy, e partirà i primi di maggio, sarà per le prime settimane disponibile solo per gli utenti di 3 Italia. La novità è che si potranno ascoltare gratuitamente 15 ore al mese di musica, catalogo 11 milioni di canzoni. Alla musica crede anche Facebook, che per le pagine dei cantanti ha lanciato un pulsante Ascolta, Listen, oltre al classico I Like. Cliccando su questo bottone si potrà ascoltare musica in streaming. Ultima notizia, dalla musica al cinema, la piattaforma italiana mymovies.it ha lanciato lo streaming on demand. Il noleggio di film su internet costa 3,99 euro. Bene, adesso abbiamo un po' di pubblicità e poi ci risentiremo nella seconda parte per parlare di Twitter con due ospiti, Marco Zamperini nel nostro studio e Vincenzo Cosenza collegato con noi da Roma via Skype, e vi faremo anche una domanda, più di una domanda, usate Twitter? Vi piace Twitter? Ci avete capito qualche cosa? C'è chi mi dice mi piace di più rispetto a Facebook, mi piace più Facebook rispetto a Twitter. Sicuramente stiamo parlando di un fenomeno ancora emergente, numeri più contenuti rispetto a Facebook, però un sistema, un social network molto interessante. Allora aspettiamo anche le vostre domande, le vostre considerazioni su Twitter al nostro numero verde, però 800 24 00 24, oppure i vostri sms 349 238 6666, o potete utilizzare naturalmente anche Twitter o Facebook. Ci risentiamo tra qualche minuto. 2024. Sono le 16:07, siamo in diretta su Radio 24 e oggi faremo un buon uso di Twitter, ma anche di Facebook. Potete comunque scriverci un sms al 349 238 6666. Adesso vi diamo anche le indicazioni per seguirci su, beh, su Facebook è molto facile, seguite la pagina di 2024, ma vogliamo sentire la vostra voce per parlare oggi di Twitter, questo social network che sta crescendo anche in Italia. I più esperti della rete, i cosiddetti early adopters, diranno vabbè, sappiamo già tutto di Twitter. In realtà questo è un social network che ancora deve raggiungere il grande pubblico, così come ha fatto nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, Facebook. Saluto Marco Zamperini, bentornato Marco, buongiorno. Ciao Enrico. Mettiti le cuffie. Allora, rispondo anche agli ascoltatori che ci hanno fatto dei commenti su Skype, perché noi siamo l'unica trasmissione che utilizza Skype. A proposito di consumerizzazione, perché i sistemi per trasmettere via radio in buona qualità, come si dice in qualità broadcast, sono molto più complessi, bisogna fare un sacco di operazioni e visto che sia costano denaro, sia costano tempo, organizzazione, di solito non si fanno mai, si usa il telefono, ma come sentite Skype è meglio del telefono, ma però è un prodotto non professionale, è un prodotto che si utilizza in casa. Certo, ci sono anche le versioni per l'enterprise, cioè, però non ha, come direbbero i nostri tecnici, la qualità broadcast. Noi lo utilizziamo, però prima giustamente qualcuno faceva un commento e diceva avete fatto un collegamento con gli Stati Uniti, si sentiva non tanto bene. Non è il problema degli Stati Uniti, il problema a volte è il microfono, la cuffietta che magari non è di buona qualità. Adesso lo diciamo ai nostri interlocutori. A beneficio del pubblico. Cioè. Esatto. Vincenzo Cosenza, che è collegato con noi via Skype. Adesso facciamo subito la prova del tuo microfono. Vincenzo, benvenuto. Buon pomeriggio a tutti. No, questa è qualità, quasi broadcast. Diciamo. Allora, Marco Zamperini è ufficialmente il Chief Technology Officer di Entity Data, una società che si occupa di tecnologia in mille ambiti, giusto Marco? Sì, diciamo che è un... facendo parte della holding di NTT, che di fatto è la telecom giapponese, abbiamo poi ramificazioni in tutto il mondo, siamo un'azienda di una certa importanza. Però tu oggi qui su Twitter sei Funky Surfer. Sì, sono il Funky Surfer, che è ancora il mio vecchio nickname. Come sai, io ufficialmente sono il Funky Professor, anni fa usavo essere il Funky Surfer, perché abbiamo già raccontato la storia anche in trasmissione, e quindi quello è il nome con cui appaio su Twitter. Sì. Io vorrevo raccogliere lo spunto che facevi tu quando dicevi che Twitter è un mezzo che deve ancora sviluppare il suo potenziale. Io sono in realtà parzialmente d'accordo con questa affermazione, perché una caratteristica di questi nuovi media, quindi Facebook, Twitter e quant'altro, Instagram, di cui magari spendiamo due parole, visto che è stato recentemente acquisito per una cifra stellare, questo ha colpito la fantasia di tutti. Il fatto che Twitter abbia 4, 5 o 6 milioni di utenti in Italia non è così rilevante. È molto più rilevante il fatto che, essendo le pareti degli altri social media molto liquide e aperte agli inquinamenti dei messaggi, la cosa veramente interessante per noi è che ci sono oltre 20 milioni di utilizzatori di Facebook. E Twitter, per mille motivi, è capace di innestarsi molto bene all'interno di Facebook. E quindi in realtà l'audience che crea non è limitata agli utenti di Twitter, ma è di fatto l'utenza complessiva di tutti i social media. Questo adesso poi Vincenzo si è cimentato molto più di me con i numeri, per cui magari ci può dare qualche statistica. Allora, tu hai già anticipato, hai già anticipato che Vincenzo Cosenza, ufficialmente chiamato così, oggi si chiama Vincos, perché, perché il nickname su Twitter è questo. Allora, ricordo che Vincenzo Cosenza è responsabile della sede romana di Blogmeter, è un esperto di social media, ha appena pubblicato per Appogeo un libro che si chiama Social Media ROI, dove ROI sta per Return on Investment, quindi per calcolare quanto poi uno investe e riesce a ricevere dall'utilizzo, se è fatto bene, dei social media. Vincos, ho detto bene? Return on Investment? Esatto, hai detto benissimo. Senti, ti faccio subito una domanda, visto che abbiamo iniziato dicendo qualche cosa sui numeri, poi diciamo, a beneficio di quelli che non conoscono molto bene Twitter, che cos'è Twitter e come funziona, però iniziamo da qualche numero. Quanti sono gli utenti, almeno in Italia, di Twitter? Beh, allora, gli utenti di Twitter in Italia, secondo le stime di Audiweb Nielsen, sarebbero 3 milioni e 7. Parliamo di visitatori al sito e non di utenti registrati, perché il dato degli utenti registrati in realtà Twitter non lo svela ed è uno dei grandi misteri che insomma appassiona un po' noi analisti. Secondo invece una stima di un'altra casa di rilevazione, Semiocast, gli utenti, effettivamente utilizzatori di Twitter, sarebbero 1 milione. 1 milione coloro che nel periodo tra settembre e novembre 2011 hanno effettuato almeno un tweet in Italia. Sì. Allora, ricordiamo che quando diciamo che una persona ha fatto un tweet, vuol dire che è andato su Twitter, è naturalmente iscritto a Twitter e scrive un messaggio che è contenuto in pochi caratteri. Allora, per iniziare questa puntata, soprattutto per raccontare qualche cosa di Twitter a chi proprio non lo conosce, abbiamo questa scheda. Nato nel 2006 da un'idea di Jack Dorsey in California, Twitter è un social network basato sul concetto di microblogging per condividere su internet esperienze personali, opinioni o notizie in forma di testo. Con una novità. Ogni tweet, cioè ogni messaggio, può essere al massimo di 140 caratteri, la lunghezza di un SMS. L'idea nasce proprio dall'unione dei messaggini dei telefonini, uno strumento semplice e immediato di comunicazione e la capillarità del web. Immaginate di mandare un messaggio non al cellulare di un amico, ma ad un'enorme bacheca virtuale accessibile a tutti coloro che si dichiarano interessati ai vostri messaggi, i cosiddetti follower. Su computer, smartphone o tablet, tutti potranno seguire i vostri tweet e voi potrete diventare follower di ogni utente di Twitter. Era molto funky la base di questa Assolutamente sì, scheda. apprezziamo. Allora, proprio per spiegare qualcosa su Twitter, vorrei che ci concentrassimo brevemente sui follower, perché questa è una caratteristica molto interessante di Twitter, ma lo facciamo dopo le informazioni che arrivano da strade e autostrade. 2024. Il concetto dei follower è importante. Allora, molti sono abituati, visto che ci sono 20 milioni di utenti o più in Italia, sono abituati a Facebook. Io do per scontato che molti conoscano Facebook. Per seguire quello che fa una persona su Facebook, uno deve diventare amico, quindi deve entrare in questo club che uno si ritaglia su Facebook. E se io non sono tuo amico su Facebook, non posso vedere nulla di quello che tu fai. Molto diverso è Twitter, perché è tutto pubblico, giusto? Allora, Twitter stabilisce questo sistema che di fatto è un personal broadcasting system. Quindi io come individuo o come polo di informazioni, perché su Twitter troviamo anche molti flussi informativi dei grandi broadcaster, delle agenzie di stampa, di autorevoli commentatori. E quindi uno comincia a mandare i suoi messaggi a 140 caratteri. Sono già diversi anni che nei paesi anglosassoni, in particolare in Inghilterra, c'è tutti gli anni questa conferenza molto bella che si chiama 140 Character Conference, in cui ci si confronta proprio questa conferenza a 140 caratteri, no? In cui si raccontano esperienze di successo. Diciamo che nel nostro paese è un fenomeno abbastanza recente, che è arrivato un po' agli onori dei media tradizionali grazie al fatto che ha cominciato a usarlo Fiorello, direi fondamentalmente, no? Che essendo Fiorello, che comunque ingaggia, è divertente, ha creato oggettivamente curiosità. E lo sdoganamento, dall'altro lato, è venuto anche dal fatto che diversi autorevoli giornalisti, giornalisti della carta stampata, quindi ricordiamo, non so, Ferruccio De Bortoli piuttosto che Riotta, Severnini, hanno cominciato a aprire i loro account, che effettivamente sono molto seguiti. Il concetto è che io mando una serie di messaggi a piacere, e le persone, gli utenti, decidono di seguirmi. E questo è quello che avviene all'interno di Twitter, no? Quindi io sono un emittente. Vengo seguito da quelli che diventano i miei follower, i miei seguaci a tutti gli effetti, e io a mia volta posso essere seguace, follower di altre fonti emittenti. E quindi il mio flusso è composto anche da quelli che seguo. Quindi l'elemento di interesse, nel seguirmi è dato sia da quello che io dico, sia dal fatto che io ho già fatto una selezione di fonti autorevoli, e quindi uno che mi segue in realtà segue sia quello che dico io, sia quello che quelle che sono le fonti che io ho selezionato. Può vedere questo, quello che tu segui. Esatto. Quindi, e quindi già questo è un elemento di interesse. In più, ripeto, io, come molti altri, scelgo di rimbalzare i messaggi che raccolgo, che diffondo tramite Twitter, anche sul mio profilo Facebook. Per cui in realtà la mia audience è fatta sì dal si contaminano a vicenda. No? Questo è interessante, tant'è che ad esempio tu usi, mi par di capire, anche Foursquare, sì, assieme a Twitter, quindi se uno vuole sapere dove si trova sempre, beh, tutte le volte che tu lo dichiari, tutte le volte che faccio un check-in, esatto, sì, tutte le volte che tu fai check-in su Foursquare, automaticamente questo viene pubblicato anche su Twitter. Su Twitter, infatti, io so sempre dove sei. E così più a volte dico però chi se ne frega dove sei, insomma, però dipende dal tipo di interazione. Oggi, prima di venire da te, visto che a Milano fortunatamente è una bella giornata, sì, ero al parco con mia figlia, e essendomi ovviamente geolocalizzato, e un mio amico mi ha detto: anch'io sono al parco con la mia bambina, vediamoci, prendiamo un caffè. E che è quello che abbiamo fatto, no? È uno dei motivi oggettivamente per cui anche quando non lavoro faccio questo tipo di azione, ad esempio. Sì, questo è interessante. Vincenzo, se o Vincos, potrei dire così. Ah, giusto, adesso diciamo, Marco, diamo i nostri, come si chiamano, indirizzi Twitter? Beh, no, il nostro Twitter name, esatto. Io sono il Funky Surfer. Perfetto, Chiocciola Funky Surfer. Chiocciola Funky Surfer. Il mio è un po' più complicato perché... _Pagliarini. Esatto. Perché tu sei uno che non gli piace fare le robe troppo semplici. Però si può cercare, fare la ricerca anche, sì, con Enrico Pagliarini. Con Enrico Pagliarini, insomma, esatto, esattamente come si può cercare anche Marco Zamperini. Esatto. Quindi. @Vincos invece è Vincenzo Cosenza, giusto Vincenzo? Esatto. Esatto. Senti, se io ti domandassi a che cosa serve Twitter, cioè tu hai, visto che hai anche un osservatorio su Twitter, quali sono gli utilizzi che vanno per la maggiore? Perché pochi giorni fa io parlavo con un amico che diceva: guarda, l'aeroporto di Bologna ha il tweet, cioè twitta su Twitter, e effettivamente se uno utilizza spesso l'aereo in quell'aeroporto, probabilmente anche altri aeroporti lo fanno, può avere delle informazioni, magari in certi periodi in cui c'è la neve, la nebbia, eccetera, eccetera. Quali sono gli utilizzi? Beh, il bello dei social media è che nella maggior parte dei casi sono un po' plasmati dall'utilizzo che ne fanno gli utenti, utenti diversi quindi ne fanno un utilizzo diverso. Quello che dicevi tu è uno dei tanti, informazioni di pubblica utilità, ma ci sono anche aziende che lo utilizzano come servizio di customer care online, quindi per sveltire le pratiche di customer service, ma oppure si può utilizzare in maniera molto amicale per scherzare sugli argomenti di attualità, quindi creare per esempio degli hashtag, quindi delle parole chiave che permettono di scherzare o di partecipare tutti insieme ad una stessa conversazione su un certo tema, o ancora per esempio un utilizzo che si fa negli ultimi mesi anche in Italia, quello di utilizzare Twitter per commentare ciò che si sta guardando la sera in televisione. Ah, interessante. Io sono sempre stato molto prudente con i social network, i social media, o come dicono alcuni social media, ma visto che stiamo parlando in inglese, social media, perché non sono un grande utilizzatore e soprattutto trovo che in alcuni momenti siano anche una grande perdita di tempo, che questo è effettivamente un aspetto interessante. Ma su questo volevo anche sentire gli ascoltatori, perché uno dei problemi di questi strumenti è che anche la radio, che si è aperta a questi canali nuovi, vive di messaggi che riceve, ma si impoverisce il nostro centralino, e la radio, insomma, sarebbe bella anche con le vostre voci. Allora ve lo ricordo: 800240024, oppure potete usare Twitter o anche Facebook. Adesso vado a vedere su Facebook che cosa hanno scritto i nostri ascoltatori. Vincenzo, io francamente credo poco, però volevo capire sia da Vincenzo che da Marco che cosa effettivamente si può fare, che le aziende possano curare gli interessi degli utenti, il famoso customer care, sì, su Twitter. Cioè, se io ho un problema, sì, come faccio a trovare una soluzione su Twitter, Vincenzo? È solamente un punto diverso di contatto con il consumatore, che se ha un problema e dice ho un problema con questo determinato operatore telefonico, per esempio, si vede all'improvviso arrivare un messaggino dall'operatore telefonico e dice proviamo a risolvere questo problema, magari in privato, e gli dà un numero appunto di telefono per poter risolvere con una corsia preferenziale, diciamo, quel tipo di problema. Marco. Mi spingerei anche più avanti. Direi che ormai siamo in un momento in cui diventa interessante per le aziende, soprattutto per le grandi aziende, cominciare a usare in maniera un po' più attiva gli strumenti di analisi del sentimento e della conversazione nei social media. Ti faccio un esempio. È ormai acclarato che Twitter funziona benissimo come canale di vendita, no? La Dell fa molti milioni di dollari di vendite tramite Twitter. È acclarato che Twitter funziona molto bene come CRM, come sistema di supporto alla clientela. Ci sono arrivati ormai persino gli operatori in Italia che Telecom ha il Twitter Team, Vodafone ha una funzione equivalente, no? Cioè operatori che di fatto rispondono alle chiamate dei clienti tramite questo canale. Ma la cosa veramente interessante è che ormai questi strumenti creano un volume tale di conversazione per cui sarebbe possibile addirittura prevenire delle crisi. Ti faccio un esempio. Facciamo un esempio. Una grande casa automobilistica qualche tempo fa aveva un modello con un problema ai freni. Sì, quando le famose notizie che noi diamo al giornale radio, la Ok. tal casa Allora, ha sì, richiamato. e quindi noi l'abbiamo saputo sui media tradizionali quando si è verificata la crisi. Sì. In realtà, se noi avessimo monitorato con attenzione la conversazione nei social media, ci saremmo accorti che già da diversi mesi diversi utenti in diverse parti del mondo lamentavano problemi ai freni, senza avere chiarissimo la responsabilità, il fatto che era un difetto di fabbrica e quant'altro. Allora, in questo caso è molto interessante, sarebbe stato molto interessante se la casa automobilistica in questione avesse letto con attenzione queste informazioni e avrebbe certamente evitato di arrivare fino alla crisi, no? Questo giusto per fare un esempio molto pratico, no? Questa è un'analisi che mi piace. Adesso abbiamo la pubblicità, ci risentiamo tra qualche minuto. Vi ricordo, numero verde di Radio 24 800 24 00 24, gli sms 349 238 6666, oppure potete utilizzare Twitter e anche Facebook. Ci risentiamo tra poco. 2024. 16 e 31 minuti, questo è 2024. Troverete anche la versione podcast sul nostro sito internet www.radio24.it nella sezione podcast, naturalmente. Ringrazio Paolo Corleoni che si occupa della parte tecnica, Gian Gabriel Lombardo e anche Anita Panizza in redazione. Saluto anche Mario che ci chiama da Roma. Buongiorno Mario, benvenuto. Sì, salve, buongiorno. Ho sentito che in qualche misura incentivavate l'uso della parola, quindi ho Beh, detto esatto, un po' vabbè. Twitter, però la radio è bella perché si Sì, può effettivamente, esprimere un vabbè, concetto. Tu usi è Twitter? un'interfaccia diversa. Esatto. Allora, io ho telefonato perché io adopero sovente sia Facebook che Twitter. Però, mentre Facebook lo trovo, anche se molto inflazionato, però lo trovo più utile anche per chi è un emerito sconosciuto e in ogni caso può confrontarsi con chiunque, eccetera, eccetera. Twitter, secondo me, a mio modesto parere ovviamente, è l'esatto contrario. Nel senso che tu puoi anche dire cose intelligenti, ma intanto sei tu che segui le persone famose e loro non se lo sognano nemmeno. E quindi tu non hai dei follower, numerosissimi, a meno che tu non sia qualcuno. Se tu segui queste persone, ed in ogni caso, anche perché, voglio dire, il confronto, no, è carino, poi non pretendi che ti rispondano tutte le volte, no? Alcune volte ti riesce di dire, perché loro forse pensano sia assurdo, però ti riesce di dire cose sensate, nemmeno ricevi una risposta. Io questo lo noto quotidianamente perché seguo diverse persone, quasi tutte interessanti, devo dire, quindi escluse modelle, veline, eccetera, eccetera, Sì. magari politici. Però tu dici, se io cerco di interagire con loro, non mi No, rispondono. sì, infatti è proprio così. Questo io lo sottoscrivo cioè tranquillamente. Poi io non sono uno sprovveduto né sono ignorantissimo, quindi mi capita spesso di dire cose anche serie, anche in risposta a quello che loro scrivono, no? Che poi magari abbraccia quello che scrivono loro, abbraccia le tematiche attuali, sociali, politiche, eccetera. Quindi avendo 49 anni e l'anagrafe ha inciso molto su di me dal punto di vista della preparazione, che altrimenti sarei uno sprovveduto, appunto, come intendevo dire prima, mi capita di rispondere anche in maniera sensata, no? Fornendo pure delle soluzioni talvolta, se vogliamo. Non voglio arrogarmi il merito di fornire soluzioni, magari, che ne so, faccio un esempio però vero. Diciamo, tu esprimi un parere che poi, certo, può essere condiviso o meno, cioè. non ti non ti caga nessuno, sì. Sì, sì. L'abbiamo capito. Dunque, termine tecnico, Mario, diciamo. Mario, è interessante il punto che tu sollevi. Vorrei sentire un parere da Vincenzo, da Vinco, se ha da Funky Surfer. Vincenzo. Beh, è un po' insito, diciamo, questo tipo di particolarità, chiamerei anche magari limite, nel tipo di struttura di Twitter, che dicevamo prima essere un social network asimmetrico, a differenza di Facebook che è simmetrico, cioè pone le persone sullo stesso piano. Quindi è chiaro che se mandiamo una risposta, un messaggio a Giovanotti, che ha 800.000 e oltre follower, e che si vedrà magari mandare, potremmo aspettarci una risposta, perché proprio anche volendo, diciamo, è difficile star dietro per una star al sistema di risposte di Twitter. Sì. Skype ha fatto un piccolo salto, però Marco, effettivamente c'è questo, io noto che ci sono dei club su Twitter, ad esempio quello che a me piace meno di tutti è quello dei giornalisti, che si parlano tra di loro perdendo anche tempo su delle stupidaggini. Effettivamente i giornalisti sono molto attivi su Twitter. Alcuni giornalisti. Sì, sì, è giusto. Perché insomma ti ricordo che la categoria alla quale anche tu appartieni, anche finta di non essere, certo, non sia così. Non tutti sono smart alla stessa maniera. Anzi, la maggior parte sono proprio dei caproni. Devo dire che è tutto da qualche in un certo senso è tutto relativo, no? Una volta, senza nessuna tecnologia, se volevamo scrivere una lettera al giornale e avere la speranza che la nostra domanda o appello o qualunque cosa fosse venisse pubblicata, l'iter era sempre abbastanza lungo e spesso frustrante, no? Cioè la probabilità che la nostra lettera fosse recepita era molto bassa. Oggi come oggi posso fare un tweet menzionando Ferruccio De Bortoli, ad esempio, nel momento in cui vorresti, o Riotta, no? Nel momento in cui vorresti far notare il mio messaggio, e come minimo il giornalista vede la mia citazione, poi può decidere di ignorarla, no? Però vede una mention, no? Una menzione che cita il suo account. È chiaro che se lui non risponde mai, visto che tra l'altro tutti i flussi sono pubblici, non lavora molto positivamente, chiaro, sulla sua immagine. Chiaro, no? Chiaro. In generale, sono d'accordo con l'ascoltatore sul fatto che spesso le star più o meno volutamente ignorano i messaggi diretti, le menzioni, diciamo, le citazioni, perché, vabbè, immagino Lady Gaga, che credo, sì, che sia l'account, diciamo, Twitter che numero uno, che ha tipo, non so, 40 milioni di follower, sì, faccio fatica a immaginare che possa rispondere. Io nel mio piccolo devo dire che comunque sono anch'io asimmetrico, nel senso che io ho circa 15.000 follower e seguo a mia volta un po' più di 2.200 account, quindi che è già un numero abbastanza importante. Molto, perché, no? Quanto tempo la parola perdi non è corretta. Esatto. Cioè, quanto tempo impieghi su Twitter? Perché se tu segui 2.000 persone, sì, adesso io non so se tu segui me, però io sicuramente faccio pochi tweet durante la settimana, quindi non ti faccio perdere troppo tempo. Io ti seguo. Perfetto. Però ci sono delle persone che sono impazzite e fanno una quantità di tweet, quindi il tempo impiegato è molto. È relativo perché, ripeto, ci sono intanto tutta una serie di messaggi che, come commentavamo anche prima, riguardano magari i check-in, cioè quindi sono molto veloci, sono flussi, certo, generali. Dunque adesso vorrei chiedere sia a Vincos che al professore qualche dettaglio su gli utilizzi che possono essere fatti di Twitter, anche quelli più utili, come immagino voglia raccontarci Paolo, che ci chiama da Roma. Buongiorno Paolo. Sì, buongiorno. Prego. Tu usi Twitter? Sei un utilizzatore? Sì, ma non molto bene. Diciamo, io uso un po' di più Facebook e qualche altra cosa. Sì. Però siccome mi occupo di emergenza da tanto tempo, sono un medico anestesista, mi occupo di emergenza. Emergenza? Sì. Ah, ok. Secondo me un ruolo importante potrebbe essere quello di un allarme immediato di situazioni di pericolo che soltanto alcuni riescono a vedere in un momento e possono trasmettere a un numero di persone molto importanti che in quel momento potrebbero essere collegate. Pensiamo alla persona che sta sulla spiaggia e si accorge che l'onda è anomala. Lo tsunami può, cioè l'allarme di uno tsunami così precoce può essere in grado, se valido e se corretto, diciamo, di andare a tante persone che difficilmente potrebbero avere notizie magari dalla radio o da altre situazioni e essere messe in allarme da questo fatto. Addirittura si potrebbe arrivare al punto di diramare con questi sistemi dei sistemi di fuga o punti di raccolta o qualcosa che possa in qualche maniera salvare delle persone che altrimenti non potrebbero essere raggiunte in nessun'altra maniera. Non lo so, possiamo sentire il parere di, perché il problema è che se in questo momento, nel momento in cui scatta l'allarme, io non sto guardando Twitter, non so, capisci Paolo, il mio dubbio. Casualità dell'evento, nel senso che magari, però questo può essere un sistema che attraverso un sistema appunto di rimbalzo mette. Certo. Sì. Cioè, non un sistema istituzionale, ma un sistema occasionale. Sì, chiarissimo. Vincenzo, un commento su questo, poi anche alcuni consigli o anche alcune esperienze reali su come viene utilizzato, come può essere utilizzato da aziende, anche privati, cittadini, istituzioni, eccetera, eccetera. Sì, ci sono in realtà dei casi simili a quelli che citava l'utente. Per esempio i vigili del fuoco di Los Angeles in America utilizzano Twitter per tranquillizzare, per esempio, o avvertire di l'esistenza di un determinato incendio in una certa zona per sgravare un po' il carico delle telefonate che arrivano al call center in questi casi. Quindi è un uso molto, molto interessante di Twitter, ma ancora in Italia per esempio c'è Atac Mobile che iniziò un po' di tempo fa a dare consigli utili su magari deviazioni di autobus e tram. Allora ricordiamo che l'Atac è la società dei trasporti di Roma. Esatto. Quindi in questi casi sicuramente può essere utilizzato efficacemente. Marco. Ma per far vedere che noi invece ci prendiamo cura di ascoltare quelli che ci citano, approfitto del fatto che in trasmissione ci sono diversi utenti che ci hanno citato, in particolare Gianluigi Cogo, web e conoscenza su Twitter, porta alla nostra attenzione l'esempio di KLM, che è un caso abbastanza interessante, perché in realtà quello che fa KLM è di accettare degli input tramite Twitter. Quindi io posso ad esempio fare un tweet indirizzato a un account gestito da KLM dove c'è un software che si prende in carico la mia richiesta. Io gli sto chiedendo ad esempio la disponibilità di un volo da un punto A a un punto B e lui mi dice: guarda, c'è a quest'ora con questo prezzo, eccetera eccetera. E la cosa interessante è che non solo viene recepita la mia richiesta tramite il canale Twitter, ma che io parlo in realtà con un software, no? Cioè ci sono degli script robot che mi rispondono, no? Sì. Questo è una cosa interessante perché, come nell'esempio che faceva l'ascoltatore invece che ha chiamato, quindi usi al per fine emergenza, di emergenza, già hanno sperimentato con un certo successo in California durante una grossa crisi che c'era stato l'anno scorso, in cui gli utenti segnalavano tramite Twitter i focolai di incendio, per cui automaticamente il software componeva una mappa dei focolai di incendio a beneficio delle operazioni di soccorso e anche per dare indicazioni a tutti quelli che volevano consultare questa mappa da che zone stare alla larga. piuttosto che diversi distretti di polizia in Inghilterra fanno un uso anche abbastanza consistente di questo oggetto. In alcune zone, soprattutto negli Stati Uniti, Twitter è un canale talmente utilizzato anche dagli utenti per segnalare crisi, fatti criminosi, no? Che cominciano a vedersi, erano girati in rete un po' di tempo fa, se ti ricordi, dei cartelli, no? Che invitavano, ce n'è uno per esempio nell'aeroporto di Los Angeles, che dice: se c'è un incendio, per favore, fate, scappate prima di twittare. Ah. No? Perché in realtà questo era il messaggio. Senti, c'è un aspetto interessante, la reputazione, però forse questo vale per le aziende di una certa dimensione, per le persone un po' note. È uno strumento per crearsi una reputazione o per distruggere una reputazione, come scrive un ascoltatore su Twitter? Beh, sicuramente. O vale ancora troppo poco? Ma i social media pongono violentemente questo problema, ne abbiamo già anche parlato, perché ormai tutti hanno una reputazione, no? Paradossalmente tu, anche come conduttore di questa trasmissione, in questo momento potresti dire: guarda, io non mi sento di avere un account su Twitter, non mi interessa, non lo seguo, però in questo momento ci sarebbe comunque una conversione consistente attorno a te che tu ignoreresti, no? Certamente. Quindi questo è il punto fondamentale, ne abbiamo già parlato anche rispetto a Facebook. Allora, questi sono strumenti che chiaramente portano in maniera molto più capillare la conversazione, no? È evidente che bisogna prendersene cura, no? Quindi come minimo esserci al fine di sapere cosa si dice di noi, aziende, persone, professionisti, no? senza essere delle rockstar. La reputazione è un tema per tutti noi, ormai non è un mistero per nessuno che se sono un giovane in cerca di lavoro, tra le altre cose, una delle verifiche che farà l'ufficio delle risorse umane, oltre a verificare i miei titoli di studio, sarà quella di andare a vedere su Facebook, su Twitter, cosa io dico di me e cosa gli altri dicono di me, perché poi la reputazione è fatta sempre da questi due elementi. Esatto. No? Adesso non proprio tutti gli uffici del personale, però. Però molti di più di quanto immaginiamo. 16:45 minuti, ci risentiamo tra un minuto. 2024. Senti Marco, questi social network sono un ottimo strumento anche per analizzare quello che accade in rete, e collego a questa domanda il mega trend di cui mi occuperò a breve, dei big data, quindi grandi quantità di dati che si generano sulla rete pronti per essere analizzati. Ma che cosa si capisce da Twitter? Poi sentiamo anche Vincenzo. Ma ripeto, non è soltanto Twitter, è la somma un po' dei vari flussi che vengono generati dalle persone prevalentemente. No? Come ti facevo prima l'esempio di prevenzione di una crisi, ad esempio. Un altro esempio è, abbiamo visto che i social media sono stati abbastanza un protagonista abbastanza forte in caso di movimenti sociali, no? Pensa alla primavera araba, in cui sì. Facebook e Twitter in particolare hanno giocato un ruolo abbastanza importante, prima di tutto per la loro enorme semplicità d'utilizzo, no? Nei paesi arabi non hanno tutti l'iPhone o lo smartphone bellissimo, hanno dei telefoni molto più basici, però questo ha reso in realtà così importante Twitter in particolare, perché basta un SMS, no? Per diffondere un messaggio. Sì. Vincenzo, che cosa si può capire dai flussi che ci sono su internet di Twitter? Perché il fatto che tutto ciò sia pubblico, e lo sia anche per le macchine, per i computer che fanno analisi dei flussi del traffico di internet, questo mi sembra che per alcuni sia interessante, anche per le intelligence, per i servizi segreti. Beh, non vorrei spingermi fino a questo punto. Io come blog meter monitoro, diciamo, i flussi di conversazione ogni giorno per conto di aziende interessate, e per esempio analizzando Twitter si nota spesso come ci siano dei trend che si conoscono poco. Per esempio Twitter viene utilizzato molto anche per postare annunci di affitti o vendite di case, di motorini, di auto, eccetera. Oppure, per esempio, si può scoprire, come dicevamo prima, quali sono le trasmissioni più discusse di volta in volta. Per esempio, ieri sera MTV Spit, una trasmissione di MTV, è stata più discussa di Servizio Pubblico di Santoro, eccetera, eccetera. Quindi, che non è detto però che sia stata più vista. Un polmone di informazioni molto interessante da monitorare per le aziende. Che non è detto che però quella trasmissione sia stata più vista. Assolutamente sì, infatti bisognerebbe sempre poi associare le discussioni con l'effettiva visualizzazione della trasmissione, che ormai purtroppo non è più solo in televisione, ma appunto passa anche per internet e quindi richiede nuovi metodi di misurazione. Senti Vincenzo, come fa soldi Twitter? Perché apparentemente, a parte qualche effettivamente messaggio pubblicitario, però se uno utilizza Twitter quasi tutti i giorni non vede molta pubblicità, come, visto che è gratuito, come si mantiene Twitter? E da qui poi possiamo partire anche per pensare se Twitter fra qualche anno ci sarà ancora oppure no. Twitter ha tre modi di monetizzare il proprio servizio, e cioè sono quelli di permettere alle aziende di sponsorizzare il proprio account. Quindi io potrei decidere come azienda di far sponsorizzare Chiocciola Vincos, no? E quindi le persone al momento in cui entrano su Twitter vedrebbero il mio account come account consigliato da seguire. Oppure le aziende possono decidere di sponsorizzare un singolo tweet, quindi fare entrare nel flusso dei messaggi della timeline di Twitter un singolo tweet ben preciso, oppure ancora sponsorizzare le cosiddette tendenze, i trending topic. Ecco, questi sono tre modi attraverso i quali Twitter può monetizzare il proprio servizio. Marco, secondo te fra qualche anno questi social media ci saranno ancora? Twitter, Facebook? Io consiglio a Facebook, cosa che stanno facendo, di quotarsi in borsa velocemente, perché non so se fra un anno il valore sarà sempre lo stesso. Comunque questi sono affari. Ma allora, sai che c'è la sensazione in queste ultime settimane che stiamo andando verso una nuova bolla, no? Al di là di Facebook, appunto. Una valutazione di Instagram, $1 miliardo, ci lascia tutti abbastanza a bocca aperta, no? Perché peraltro Instagram è un'altra di quelle imprese che fatturano zero, quindi esatto. Ha sovvertito le regole della matematica, cioè è il caso in cui qualcosa moltiplicato per zero fa 1 miliardo invece che fare zero, quindi diciamo siamo sorpresi. Facebook ha fatto questa acquisizione, ci sono delle supervalutazioni in giro di alcuni business. Ci si aspetta in realtà che ci sarà nei prossimi 3-5 anni ancora una crescita molto forte di questi media, anche perché devi considerare che c'è ancora un bel pezzo del mondo dove questi media non sono esattamente favoriti, anzi vengono sostanzialmente osteggiati. No? Certo. E d'altro canto anche nel nord del mondo c'è ancora tutto un pezzo di utilizzatori che si devono accorgere di questi media. Allora, Twitter in particolare nei prossimi da qui a 3 anni, secondo me farà una crescita ancora più impetuosa, grazie al fatto che ormai è stato sostanzialmente incapsulato nel sistema operativo della Apple. Quindi non è neanche, praticamente non è più neanche una componente accessoria, tutte le varie scelte di condivisione nel sistema operativo hai Twitter come opzione. Piace molto, lo trovi come widget sui televisori connessi, no? Cioè, è un canale che ormai anche la stampa tradizionale, grazie al fatto che diversi giornalisti ne hanno abbracciato, cioè, non so, anche sui magazine c'è cioè la colonnina, dicono di noi, questo è il nostro account Twitter, no? Peraltro anche insieme al fatto che i siti internet sono sempre più noiosi, quindi in realtà questo va detto. Sì, è fatto bene a dirlo. Bene, io ringrazio Vincenzo Cosenza per essere stato con noi, a presto, buon lavoro, ciao Vincenzo. Grazie a te Enrico. Ciao Vincenzo. Collegato con noi via Skype, e ringrazio anche Marco Zamperini, funky surfer, ma per noi funky professor. Ecco, e quello che mi permetto di dire agli ascoltatori, se anche nei prossimi giorni avete voglia di mandarmi dei messaggi o citarmi su Twitter, io cercherò di rispondervi, bravo, perché bravo. Ho colto la provocazione. Dunque, un ascoltatore, Antonio Amadori, scrive, fa una serie di considerazioni, ma ci metterei un po' troppo per spiegare, però dice un programma sul futuro, questo non è un programma sul futuro, e va detto, va specificato, questo è un programma sull'attualità, perché come dice uno dei nostri esperti, Gianfranco Giardina, è troppo facile parlare del futuro perché nessuno può essere smentito. Il problema, la difficoltà è far capire e divulgare l'attualità. Questa è la cosa complicata. E devo dire che gli esperti, tutti gli esperti che di settimana in settimana si alternano a 2024, sono capaci di fare questo. Ringrazio Paolo Corleone che si è occupato della parte tecnica, Marco Zamperini, a presto, ciao Marco. Ciao. Buon weekend. Noi ci risentiamo la prossima settimana qui su Radio 24. Vi ricordo che tra poco sarà disponibile la versione podcast del nostro programma. Io sono Enrico Pagliarini. Adesso cito una cosa che non abbiamo detto fino adesso: potete scrivermi durante questa settimana una bella email, non troppo lunga, a 2024@radio24.it. Un buon ascolto con i nostri programmi. 2024. 2024. 2024. 31 seconds in.